Spiegato! Diranno! Presto di pentirai! Ben presto pianerai! Mirate! Mirate che già cade! Cade dal ciel! Cade dal ciel! No! Non tanta crudeltà! Te! Di nuova l'impietà! Un infelice figlio! Spiegato! Diranno! Spiegato! Presto dipentirai, ben presto piangerai. Mirate, mirate che già cade il fulmine dal ciel. Cade, cade, cade il fulmine dal ciel. Di mie sciagure o barbari per poco gioirete, il ferro mio prendete, e lì dal cielo aspetta la sola mia vendetta. Sarai punito perfino, se non sarai crudel, crudel, crudel, se non sarai crudel. Presto piangerai, mirate, mirate che già cade.